Italia in controluce. Oggi è il 24 di luglio, buon pomeriggio a tutti da Daniele Biacchessi. Quello in onda oggi è un vero e proprio viaggio da nord a sud attraverso i problemi dell'amministrazione pubblica. La prima fermata la facciamo a Sesto San Giovanni, travolta dalle inchieste sulla corruzione. Lucio Bondì ha intervistato il sindaco della città, Monica Chitò. Di questi ultimi tempi lo scandalo di Sesto San Giovanni, che chiaramente non ha riguardato né la sua attuale amministrazione né l'amministrazione precedente in cui lei era un assessore. Ciò nonostante, questo avrebbe potuto in qualche modo danneggiare la vostra immagine, la vostra campagna elettorale, mentre lei ha ottenuto una forte riconferma dalle urne. Secondo lei perché questo è successo? Io non sono dell'idea che bisogna negare la realtà. E tutta la questione che riguarda l'esposizione mediatica a seguito delle indagini giudiziarie che hanno messo Sesto San Giovanni sulle prime pagine dei giornali c'è stata e ha influenzato la campagna elettorale. E poi la differenza rispetto all'atteggiamento che abbiamo avuto come forze del centro-sinistra è stato proprio quello di non nasconderci rispetto a un dibattito pubblico molto, molto forte, anche molto intenso che c'è stato in città, non negare lo sgomento dei cittadini e quindi metterci la faccia fin da subito e cominciare un percorso di grande partecipazione, e credo che alla fine sia stato questo che ha premiato il fatto che i cittadini, la cittadinanza ci abbiano visto esporci senza nasconderci dietro politicismi inutili che non avrebbero capito. E dunque lei ha parlato di coinvolgimento dei cittadini, delle associazioni, del territorio. Oltre alle primarie lei ha voluto redigere il suo programma elettorale stesso a partire dalle proposte dei suoi elettori e dei suoi cittadini. Ci può raccontare meglio come è avvenuto? Sì, sono stati individuati 6 macro argomenti di rilevanza cittadina intorno ai quali si sono iscritte circa 250 persone, forse anche di più, e che per un po' di tempo hanno dibattuto, è stata fatta una sintesi di questo dibattito, non è stata fatta un semplice collage delle proposte, è stata fatta anche una sintesi politica, nel senso che ci deve essere un filo rosso che tiene insieme il tutto. E abbiamo avuto un attimo di rallentamento in questo inizio di consigliatura, ma l'intenzione è quella di riprendere subito un contatto che sia costante nel tempo, perché questo rapporto molto fitto e proficuo dal mio punto di vista con la parte più attenta della cittadinanza che si occupa della cosa pubblica non può che aiutare l'azione di governo e chi amministra. Voi avete parlato di salvaguardare quello che avete chiamato il made in Sesto, che può sembrare anche un'espressione strana in un momento in cui di solito si parla di una scala più che nazionale, globale di produzione. Ecco, perché questo può essere un vantaggio per una realtà comunale? Come è possibile incentivare le imprese e le attività a nascere e a rimanere sul territorio? Allora, made in Sesto è un po' una provocazione, però una provocazione che ha un senso, nel senso che nasce da un progetto che è il Made in Maggio. Il Maggio è un luogo della città, un recuperato, un manufatto dell'ex industria, l'ex magazzini generali della Falck, che noi abbiamo utilizzato per un progetto insieme al Politecnico per un riuso temporaneo degli spazi sul modello delle grandi città europee, in cui abbiamo dato l'opportunità e stiamo dando l'opportunità a artigiani, micro aziende artigiane che hanno un valore innovativo ed ecosostenibile, di trovare uno spazio dove pagare sostanzialmente le spese e non essere gravati da affitti o da costi che a volte strozzano soprattutto quelle imprese che stanno per fare il passo, per strutturarsi maggiormente. È una realtà molto bella, molto vivace, molto di respiro internazionale. Ci piacerebbe che questo Made in Maggio, dove è un po' il marchio che contraddistingue tutta la produzione, tutte le produzioni che lì dentro si trovano, possano trovare poi anche uno sbocco nella città o nella collocazione della città, e quindi questa sorta di Made in Sesto. Il viaggio nella pubblica amministrazione prosegue con Massimo Cialenti, sindaco dell'Aquila. Cosa significa per voi da aquilani aver visto il caso del sisma in Emilia, e soprattutto quali indicazioni si sente di poter dare? Sì, vabbè, noi chiaramente la situazione dell'Emilia ci ha colpito in modo particolare perché siamo gli unici e possiamo capire fino in fondo quello che stanno vivendo, quindi massima solidarietà, partecipazione umana, cordoglio per le vittime. E, dopodiché io, alla luce di quello che è successo all'Aquila, li ho avvertiti, l'ho raccomandato loro, ho parlato con sindaci, con Vasco Errani, però già conosceva la situazione aquilana molto bene, di evitare la burocratizzazione pesante per un errore che è stato quello di decidere il commissariamento con tutti i vice commissari, strutture tecniche di missione e così via, che ha esaturato qualsiasi ruolo degli enti locali, ha creato una burocrazia tale per cui l'Aquila ancora non riparte. Io ormai dico sempre una frase, spero adesso di riuscire a mettermi nella scia del terremoto dell'Emilia, dove ho visto che il governo invece ha dato delle risposte più rapide. Guai se entrano nel tunnel burocratico nostro, perché noi in questo momento siamo quasi nella situazione dell'Emilia. Quindi il fatto che lei sia stato nominato vice commissario all'emergenza non le ha di fatto comunque permesso di avere un forte potere decisionale nella ricostruzione? Guardi, io ho capito immediatamente che la struttura commissariale era un errore grave. Io ero commissario per l'assistenza alla popolazione e dopodiché già entrammo in carica i primi di febbraio, il primo febbraio del 2010. Io già nel mese di marzo, aprile, cominciai a dire che non poteva funzionare, lo dissi in tutti i modi, fino a quando il 22 di settembre mi dimissi. E la risposta del governo, anziché cogliere il mio grido di allarme lanciato in modo così deciso con le mie dimissioni, la risposta fu quella di nominare altri vice commissari, quindi di indurire ancora di più questa rete che burocratica è sempre più poi andata avanti fino a distruggerci completamente. Ecco, ma questo problema organizzativo riguarda anche il piano finanziario e in generale economico? Il problema è che noi siamo stati fermi con tutti i soldi. Il problema dei soldi non c'è stato in questo momento, noi siamo fermi con i soldi in banca. Lei immagina, io ho dei danni gravissimi portati dai cimiteri. Ci sono 5 milioni di euro, non li posso utilizzare perché aspettano, la struttura commissariale pretende di avere i progetti definitivi. Il Comune dell'Aquila è senza bilancio. Per dare i progetti definitivi io devo avere dei soldi per fare un bando, no? Per assegnare la progettazione, perché non riesco a farla in casa in questo momento, diciamo, con i miei tecnici del comune. E per questo motivo noi siamo fermi, questi 5 milioni non vi arrivano. È un passaggio burocratico che mi viene imposto senza alcun motivo. E per il quarto anno noi avremo ricorrenza dei defunti con i loculi crollati e le tombe aperte. Qual è attualmente la situazione della ricostruzione? Che tempi si possono prospettare? Guardi, in questo momento il governo si appresta a fare finalmente una legge. Cambia la governance, il 15 settembre si prevede che cambia governance, a questo punto spero che vada in mano, tutto venga in mano agli enti locali, dopodiché io sono in condizione ritengo di essere in condizione di partire, mi assumo questa responsabilità, per cui vorrei partire con il centro storico ai primi del 2013, terminare la ricostruzione pesante della periferia, cioè le case con danni gravi, di concluderla entro la primavera del 2014. Noi siamo stati fermi fino adesso, punto. Noi abbiamo letteralmente buttato 2 anni. Da Sesto San Giovanni all'Aquila fino a Palermo con Leo Luca Orlando. Sindaco, diciamo che è un momento difficile per molte aziende municipalizzate. Quali prospettive avete per intanto il risanamento e poi il rilancio? Siamo in presenza di un livello di emergenza molto alto che viene indicato da un bilancio fallimentare del Comune e delle partecipate. Il primo criterio di riferimento è mettere i conti a posto. Significa una verifica severa del bilancio, significa un'eliminazione di sprechi, ma anche al tempo stesso un tentativo di recuperare i servizi possibili, con l'attivazione dei meccanismi di risorse europee che in questi 10 anni non sono stati utilizzati poco, non sono stati affatto utilizzati. Ha fatto molto notizia il nostro intervento molto chiaro per mettere ordine nella gestione della GESA, perché era una gestione fuori controllo. Siamo stanchi di sentirci chiedere soldi senza garanzia che questi soldi vengano impiegati in maniera corretta. Qual è la prospettiva della GESA? Ovviamente quella di rivalutare il patrimonio di proprietà comunale e di andare sul mercato, ovviamente di andare sul mercato. Quindi voi non escludete una vendita di quote di municipalizzate? Della GESA? Assolutamente no. Noi siamo intenzionati a mettere in ordine i conti per evitare di svendere al ribasso al primo pellegrino mercante di cioccolattini. Dopodiché abbiamo intenzione, se questa società, la società che diventa tale, degna di gestire un grande aeroporto, ovviamente di cedere quote a privati. Cedere quote a privati mantenendo un minimo di presenza del capitale sociale. Per quanto riguarda i rifiuti invece, di recente si è addirittura paventato una crisi dei rifiuti a Palermo. Voi che piano avete per la normalizzazione della gestione dei rifiuti e anche per il rientro finanziario della società? Noi purtroppo non abbiamo un piano per quanto riguarda l'AMIA, perché non siamo noi amministratori dell'AMIA. Noi possiamo esprimere alcuni principi che evidentemente verranno realizzati nel momento in cui noi avremo la responsabilità di amministrare, certo, che in atto invece è degli amministratori giudiziari. È evidente che bisogna eliminare anche qui gli sprechi. Ci sono una serie di inquietanti sprechi che riguardano il percolato. Occorre ovviamente potenziare la raccolta differenziata. Occorre utilizzare la discarica di Bellolampo, che è una discarica che a suo tempo, quando ero sindaco, era la migliore e unica in regola, secondo la normativa europea, a sud di Roma. Occorre certamente anche qui un piano industriale che consenta all'AMIA di essere un'azienda e non di essere un carrozzone che, come è noto, dispiace tornare su questi aspetti, è servito in passato a finanziare decine di viaggi a Dubai di frotte di incolti e corrotti amministratori che hanno sprecato risorse che, essendo pubbliche, hanno pensato che fossero di nessuno. L'esperienza del Teatro Garibaldi lei l'ha accolta favorevolmente, ma si tratta comunque di un'occupazione abusiva sui modelli di quelli che ci sono stati anche a Roma e a Milano. Tanto vorrei dire che di abusivo c'era la chiusura del teatro, perché questo teatro è un teatro che potrebbe funzionare e che abusivamente è sottenuto chiuso, dopo anni nei quali gli operatori culturali, i cittadini e le cittadine hanno visto questo teatro chiuso, hanno pensato di riaprirlo. Io me ne vanto del fatto di avere riaperto il Teatro Massimo, il Teatro Lirico di Palermo, dopo 24 anni di chiusura. In questi anni si è chiuso abusivamente lo Spasimo, si è chiuso abusivamente il cantiere culturale della Zisa, si sono chiusi tanti spazi culturali con un grave danno anche economico, oltre che di immagine per la nostra città. Era Italia Contro Luce, torniamo domani come sempre alle 13:30 con nuove storie, nuovi reportage su Radio 24.